Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Il futuro è di chi sa immaginare, ma anche di chi sa fare quello che dice. E quando si parla di internazionalizzazione e di export, bisogna sapere come dare concretezza a queste parole chiave per cercare nuovi mercati. Oggi due idee anticrisi che si rivolgono a un'economia emergente e a un'economia vicina. Idee che diventano realtà, oltre confine. Cavalieri Retailing, società di consulenza marketing e HR in ambito distributivo, ha aperto una sede in Cina, nuovo mercato in cui lavorerà a supporto dei brand internazionali che vogliono penetrare sulla piazza locale. La nuova sede sarà a Shanghai, la metropoli cosmopolita più importante del paese mandarino, nuova vetrina imprescindibile e laboratorio di retail. Davide Cavalieri, General Manager di Cavalieri Retailing. Noi operiamo da quasi 25 anni, il prossimo anno faremo i 25 anni di attività nel mondo del marketing e della distribuzione, quindi aiutiamo le aziende tendenzialmente italiane, ma abbiamo lavorato e lavoriamo molto anche con aziende internazionali, per sviluppare il loro concetto di distribuzione sia sui grandi magazzini sia sui negozi specializzati. Qualche anno fa, preciso nel 2009, abbiamo deciso, avevamo due filiali, una a Roma e una a Milano, oltre a quella la sede principale di Torino, che forse l'Italia era un paese che sta per arrivare nel periodo più importante della crisi, e quindi abbiamo cominciato a osservare gli internazionali. Diciamo che l'idea di andare in Cina è nata appunto nel 2009 perché da circa 4 anni lavorava un nostro partner che fa ricerca e selezione del personale proprio su Shanghai e che si occupava per le aziende italiane di cercare manager sia europei che chiaramente cinesi per le loro aziende. Ecco, quindi da qui è nata la vostra idea, la vostra innovazione idea anticrisi, da un incontro con questa nuova frontiera del talent scout nella Cina e il pensiero che la Cina potesse essere un terreno di conquista. Quindi che cosa avete pensato? Sì, abbiamo pensato che le aziende italiane, perché l'Italia è sicuramente, per quanto riguarda la mente dei cinesi, la più grande potenza culturale, oltre chiaramente la Cina, quindi loro hanno una visione dell'Italia molto alta per quanto riguarda il prodotto, tutta la nostra filiera prodotto, quindi sia il tessile che l'innovazione tecnologica e anche il food. E questo ci consola. Sì, infatti, questa è una cosa che è un grosso percepito, molto più alto di quello che molti marchi italiani che sono presenti in Cina hanno, un posizionamento più alto di quello che hanno in Italia. E quindi questo bisogno fondamentalmente delle aziende italiane di arrivare in questi mercati e andare su modelli distributivi che chiaramente lì non c'erano ancora, perché poi è vero che la Cina si sta espandendo molto, ma il modello di consumo è ancora in costruzione, quindi i consumatori cinesi hanno ancora delle modalità di acquisto che non sono ancora quelle evolute dei comportamenti occidentali. Quindi voi che cosa fate? Aiutate le aziende praticamente italiane a rendersi disponibili per il mercato cinese, no? Sì, le aiutiamo soprattutto per costruire il sistema delle offerte, quindi come riuscire a raccontare la propria storia, quindi la propria capacità di produrre dei prodotti di alta qualità su tutte le leve che ci sono nella logica distributiva, quindi come farle, in che negozi, con che tipo di modalità, in quali paesi, perché poi la Cina ha una caratteristica differente rispetto al resto dell'Europa, perché esistono una quantità enorme di città, cioè ci sono quasi 300 città che hanno più di 2-3 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando di un mercato gigantesco. La vera rivoluzione anche culturale è dovuta anche ovviamente al progresso economico che ha fatto la Cina in questi anni, non è delocalizzare e portare là la produzione per sfruttare il dumping, i bassi costi, ma è trovare un mercato aperto a offerte italiane. Ecco, voi come strutturate questa cosa? Da chi siete stati aiutati come avete messo in piedi questa idea per realizzare, diciamo, questo vostro obiettivo? Sì, appunto siamo partiti da questa società che si occupa di edunting e abbiamo preso l'ufficio con loro, quindi oggi siamo a Shanghai con un paio di persone italiane che parlano cinese, quindi chiaramente riescono a comunicare con il mercato locale, e stiamo chiaramente iniziando con le aziende europee. Di fatto però negli ultimi mesi si sono affacciate nel nostro potenziale portafoglio clienti anche le aziende cinesi, perché ci sono molte aziende cinesi che sono interessate a uscire dalla Cina. e quindi chiaramente stiamo cominciando anche con loro a fare una serie di ragionamenti su quali modelli distributivi utilizzare per raccontare l'offerta cinese, oltre che chiaramente per aiutare le aziende europee a raccontare l'offerta europea nel loro mercato. Quindi diventate un'autostrada a doppio senso, diciamo, per la comunicazione tra i paesi e soprattutto, diciamo, riuscite anche a superare certe barriere culturali. Quello che ha funzionato è stata la rete, aiutarsi e mettersi insieme per voi. Assolutamente, oggi una cosa che ho notato molto forte, e gliela racconto come esempio, è oggi la facilità di prendere appuntamenti in Cina è decisamente superiore a quella che noi abbiamo qua in Italia, nel senso che noi siamo anche conosciuti nel nostro territorio da anche grandi aziende, ma facciamo molto più fatica ad avere un appuntamento con un grande manager di una multinazionale anche italiana o di un'azienda grande italiana che non in Cina, dove a volte riesce a prendere appuntamenti il giorno per il giorno dopo. Quindi anche un'apertura mentale, diciamo. Sì, proprio un orientamento all'innovazione, al cambiamento, cioè è un mercato in forte crescita senza troppe barriere e soprattutto anche ad esempio una cosa che è molto forte, c'è una forte aggregazione italiana, cioè quindi c'è un gruppo molto importante di persone che appunto essendo tutti della stessa nazione si aiutano vicendevolmente, quindi c'è una forte connotazione di gruppo Italia che lavora in Cina. Ultima domanda, revenue, cioè cosa guadagnate da questo salto, da questa idea anticrisi? Ma diciamo che noi abbiamo una previsione appunto a 3 anni di portare un 30% del fatturato che facciamo qua in Italia in Cina, quindi siamo nell'idea di fare uno sviluppo importante nei prossimi 3 anni, dove è chiaro, il primo anno non avevamo budget significativi perché è tutto in fase esplorativa, quindi abbiamo più investimenti, però siamo dell'idea che è un progetto che ha una visione a medio e lungo termine molto significativa. Hula Hola, la startup digitale che promuove e vende in Italia all'estero prodotti made in Italy, rilascia la nuova piattaforma tecnologica, lancia un nuovo modello di business e punta all'Europa, aprendo una nuova sede a Berlino. Hula Hola è una e-shop community dedicata a design, arte, moda, food, rigorosamente italiani. L'accelerazione della startup è stata resa possibile grazie all'ingresso nella compagine societaria di Digital Magics, venture incubator di startup digitali che ha affiancato il team dei fondatori nello sviluppo strategico e tecnologico della startup. Pietro Masi, fondatore e CEO di Hula Hola. Come capita spesso a me, è stato un piccolo processo di chiacchiere e come sempre è nato da un dialogo tra due competenze profondamente diverse, fatte da me e dall'altra fondatrice, Ermanna Colombini, dove sostanzialmente con due esperienze passate così diverse. Quali? La mia è esclusivamente nel mondo internet e digitale, facendo impresa perché ho creato la mia prima società, una web agency a 26 anni, e la sua invece di commercio e di fatto a mano, di creatività, di arte, di passione per il gusto. Queste chiacchiere hanno portato all'idea di Hula Hola, ma più dei curriculum professionali contano le passioni, perché io lavoro nel digitale anche perché ho una passione per tutto ciò che è digitale, che è internet, che è videogioco, che è interazione, mentre lei ha sempre avuto la passione per quella che è la moda, ma del pezzo singolo, del pezzo originale, dell'autoproduzione. Ecco, allora questa idea, che cos'è, in che cosa consiste, che cosa vendete, che cosa fate? Ma sostanzialmente noi vendiamo quelle che sono le idee originali, i pezzi unici o le piccole produzioni locali degli italiani, della creatività italiana all'estero. Questo è il centro dell'idea. La modalità con cui lo facciamo è leggermente diversa dal marketplace, diciamo, tradizionali. Il modello di business rispetto ai nostri tra virgolette competitors è dal punto di vista del consumatore molto simile, nel senso che ottiene dei pezzi unici, ottiene il made in Italy, ottiene dei pezzi di qualità. Da parte invece del venditore, noi ci siamo differenziati in quanto forniamo a pagamento dei servizi professionali per l'accesso alla piattaforma, ma soprattutto per lo sviluppo della loro brand online. Noi semplicemente non mettiamo i loro pezzi migliori su internet chiedendogli uno sconto o facendo un'offerta, ma creiamo il loro shop con i prezzi che preferiscono a loro, tutto in chiaro, e gli forniamo dei servizi che sono quello che veramente necessitano per andare in rete, e sono le traduzioni professionali, e sono gli shooting fotografici, la triangolazione della logistica, un aiuto in termini amministrativi, il mandato all'incasso, forniamo tutta una serie di servizi che sono fondamentali per chi vuole accedere e sviluppare il proprio know-how online. Quindi fondamentalmente voi mettete in contatto questi giovani creativi, artigiani, queste piccole realtà produttive con i compratori all'estero e soprattutto in Germania, in una sorta di piazza del mercato virtuale. Esattamente, quello che infatti noi lo chiamiamo né e-commerce né marketplace, ma in realtà è un accesso alla piattaforma, dove la capacità nostra di Ulaola non è soltanto quella di fornire da parte business to business questi servizi, ma poi anche quella di acquisire i consumatori all'estero. E la nostra piazza preferita, come appena sottolineato, è proprio quella della Germania. Quindi ecco, chi vi ha messo in condizione di viaggiare, anzi in condizione di camminare da soli e di ovviamente andare oltre confine a vendere i prodotti made in Italy? Guarda, la realtà chi ci ha accelerato il processo è stata la grande partnership che abbiamo fatto con Digital Magic, dandoci tutte quelle che sono le competenze acquisite in 1000 progetti, di poter procedere veramente in fretta e di superare quella che normalmente sarebbe una curva di esperienza lunga e costosa. Ecco, la cosa importante è quella di vendere i nostri prodotti all'estero, un punto nevralgico, forse a certe volte un punto debole anche delle start-up. Voi gli investitori li avete avuti, li state cercando, ma è importante anche il prodotto, non è solo l'entrata di denaro, ma anche il fatto che l'entrata di denaro per investire nella startup, ma anche il fatto che comunque i prodotti abbiano un mercato. Assolutamente, ma la nostra scelta del Made in Italy è duplice. Da una parte è una scelta di chiaro posizionamento sul mercato, perché quello che noi vogliamo posizionarci verso l'estero è come una sorta di hub del Made in Italy dove poter trovare soltanto prodotti certificati. E poi la seconda cosa, perché noi onestamente crediamo molto nel Made in Italy, crediamo sul fatto che la creatività italiana, lo stile italiano sia e sarà ancora per tanto tempo una qualità di qualsiasi tipo di prodotto. E ora via l'esplorazione di nuovi mercati. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza, un saluto da Anna Marino.